Ad alta voce, Monica Piseddu legge Il gioco dei regni di Clara Sereni. Undicesima puntata. Quando Yakov le presentò Moshe Belinson, Xenia seppe subito dal calore del sorriso che le spiegazioni non erano necessarie. Lui sapeva già che non era ebrea e non se ne preoccupava. Si erano letti reciprocamente sulle pagine di Russia. Lo interessavano di più il passato di social rivoluzionaria e il suo presente di attiva devozione alla causa sionista. Si accordarono in fretta sul denaro del suo soggiorno nella casa, come di una cosa volgare di cui né una parte né l'altra facevano gran conto. Poi insieme a Yakov cominciarono a discutere della riunione. Xeniushka, rientrando, trovò sua madre che dirigeva i lavori. Mobili da spostare, sedie da disporre, le porte smontate per farne altri posti a sedere. Non trovava un angolo per sé. Aveva i compiti da fare e non c'era punto della casa che non fosse invaso. Pioveva forte, era freddo. Xeniushka non ebbe voglia di andarsene, come spesso faceva, a casa di qualche amica. Decise di restare, ostentando però la fronte chiusa ed estranea. Il rifiuto a partecipare all'ennesima impresa di sua madre. Xenia accolse gli ospiti sulla porta. «Shalom», disse, con una gran stretta di mano. Cominciarono ad arrivare i giovani. Ebrei italiani di buona famiglia, indistinguibili nei visi e negli abiti da tanti loro coetanei. I dirigenti sionisti non nutrivano gran fiducia nell'esito della riunione. Quei giovanotti azzimati non sembravano avere alcuna propensione a trasformarsi nei coloni coraggiosi e cocciuti di cui c'era bisogno in terra di Israele. La raccolta di fondi comunque lasciava ben sperare. E dunque presero a descrivere ciò che in Palestina si andava facendo in quei mesi con gran fervore, consapevoli di avere di fronte un uditorio duro alla commozione. E infatti fra i giovani aleggiavano sorrisi di sufficienza. Erano venuti per curiosità e obbligo morale, ma l'idea di fondare un kibbutz appariva ai loro occhi una pura follia. Soldi ne avrebbero dati, ma soltanto per antica abitudine alla beneficenza. Xenia pose alcune domande sull'organizzazione del lavoro, sulla condizione delle donne, sulle possibilità di studio per i più giovani. Xeniushka, preoccupata e irritata, vide che sua madre stava sognando un sogno nuovo. Le guance accese, le mani intrecciate come per devozione, erano indizi certi di una nuova, romantica passione. La riunione volgeva al termine. Xenia girava con un cestino per le offerte. «Se avessi i quattrini raccolti negli anni con quel cestino, sarei milionaria», pensava Xeniushka. E il suo sguardo severo non consentiva a nessuno di esentarsi. Uno studente mingherlino, con gli occhiali, facendosi largo fra i tanti che chiacchieravano, sollevati dal concludersi dell'incontro, si avvicinò al piccolo gruppo dei dirigenti. «Come si fa per partire?» chiese. Belinson lo squadrò con insofferenza. Bisognava essere russi e aver visto i pogrom per dedicarsi a quell'impresa. Meglio non avere damerini fra i piedi, a far d'impiccio a chi lavora sul serio. «Prima di partire», disse, «bisogna imparare l'ebraico, altrimenti con i compagni di lavoro non c'è neanche lingua comune con cui capirsi». «Parlo correntemente il francese, l'inglese e il tedesco», lo interruppe il giovane per niente intimidito. «E poi bisogna allenarsi in campi di lavoro», continuò Belinson, senza rilevare l'inciso. «Imparare almeno i rudimenti dell'agricoltura». Senza sforzarsi di nascondere l'insofferenza di tanti incontri inutili, di tante riunioni andate a vuoto, Belinson prese fra le sue le mani del giovane, le rivoltò perché le palme fossero visibili. Qualche traccia d'inchiostro pelle liscia e tenera come quella di un neonato. Con mani così non si sopravvive 15 giorni in Palestina, disse. Il giovane però non se ne andava. L'ostilità palese dell'altro non bastava a scoraggiarlo. Avrò i calli alle mani, promise, quando mi imbarcherò per la Palestina. Si aggiustò gli occhiali sul naso, chiese del materiale informativo. Xenia cercò di smorzare il giudizio preconcetto di Bellinson con frasi collaudate di incoraggiamento e fiducia. «Non stia a preoccuparsi per me», le disse Enzo. «Io partirò. È deciso». Xeniuska, dal suo angolino nel fondo della stanza, lo vide andar via da solo, con gli occhiali affondati in un mucchio di opuscoli e giornali. Il cielo estivo avvolgeva di colori i fori e il Campidoglio. Nelle luci violente del tramonto, Alfonso ed Ermelinda, mute e immobili dopo molte parole e operosità, sedute in terrazza si concedevano il lusso dello spettacolo. Affannata, Finimola si affacciò alla porta finestra. «Dalinda!» disse. Alfonso ebbe un breve sospiro di impazienza. Le controversie continue fra le due serve la snervavano. «Cosa c'è ancora con Dalinda?» chiese con un tono di sopportazione e gli occhi al sole. «Sputa!» disse Finimola torcendosi le mani. Alfonso guardò con rammarico i rossi e i bruni dell'orizzonte. Ermelinda le regalò un'occhiata di comprensione. Per le donne quello era il modo di chiamarla in ballo. Anche per loro era madre, in un certo senso. Ma Finimola non faceva la scena stavolta. E infatti non parlava, lei solitamente tanto loquace e prodiga delle proprie ragioni, solo si affrettava lungo il corridoio incitando con gli occhi la padrona a far presto. In cucina Dalinda in terra, vicino alla stufa economica, un braccio tutto storto sotto il corpo, le gambe larghe e strane, la bocca piena di bava schiumosa e rosata. Lello arrivò dopo poco, auscultò e le fece un'iniezione, ma che non c'era niente da fare, Alfonso lo sapeva già. Dal primo momento. Teneva fra le sue la mano di Dalinda, la stringeva forte per darle coraggio e si sentiva disperata. Con lei aveva avuto a che dire su ogni decisione da prendere. Solo le differenze sociali avevano evitato liti vere e proprie. Misurandosi negli scontri, avevano saggiato le proprie forze e avevano imparato a sommarle. Perciò ora, di fronte alla sua morte, Alfonso si sentiva tanto debole. Con la voce arrochita, Dalinda farfugliava di cibi. E proprio quando le spighe svettano più rigogliose, la falce le strappa via, e da quella morte viene il pane, e i giudii, diceva, sono come le olive, che per farne uscire il buono bisogna schiacciarli forte. Il cibo di una vita si inveleniva di visioni, farina rossa come il sangue e olio fatto di lacrime. E ancora le spighe come un'ossessione, e con strida rauche chiamava i ragazzi, uno per uno, stendendo davanti a sé le mani, come a proteggerli da un pericolo. E all'improvviso Alfonso confusamente ricordò la maledizione e la vecchia, le olive e gli scongiuri. «Vai via, Satan», disse, per rasserenare Dalinda. D'un colpo Dalinda smise i gesti e il farfugliare. Lucida per un attimo, disse con voce chiara: «C'è un tempo per sradicare», e morì. Con il suo primo stipendio da impiegata, Xeniuska si regalò un paio di scarpe nuove e una borsa assortita. Sua madre, senza alcun entusiasmo, si congratulò per il buon gusto della scelta. Anche il secondo stipendio fu falcidiato. Xeniuska consegnò ad una pettinatrice del centro la sua treccia, ricevendone in cambio due virgole sulle guance. Tornò a casa con la testa leggera. Lungo la strada ebbe da qualcuno un lungo fischio di ammirazione. Sua madre alzò gli occhi dal libro, la squadrò. Sieniuszka arrossì dalla fronte al collo, clamorosamente nudo. «Ricresceranno», disse Xenia e riprese a leggere. Uno squillo deciso di campanello, Xenia andò ad aprire. Il ragazzino nel vano della porta la aggredì con un precipitoso discorso in russo, zeppo di parole difficili e inconsuete, e un'aria da primo della classe che aumentò la sua irritazione. Gelidamente, in perfetto italiano, Xenia disse: «Immagino che sia qui per mia madre», e gli fece strada. Seguendola lungo il corridoio, Mimmo rivedeva con altri occhi la casa. La povertà che un tempo gli era apparsa squallida e approssimativa, gli sembrava ora motivata dalla vastità degli ideali di chi vi abitava. E perfino la ragazzina smorfiosa che aveva importunato le lezioni di Yakov, forse adesso, con l'aria seria che aveva assunto, poteva essere presa in considerazione. Mentre annunciava la visita a sua madre, Xenia decise che sarebbe uscita di nuovo, sarebbe andata da qualche parte, dovunque, pur di non sentire le loro chiacchiere noiose, in russo o in italiano che fossero. Quando si affacciò per salutare, sua madre e il ragazzino parlavano fitto. Xenia colse al volo il nome di Savinkov e per lei era già troppo. Di malumore, Xenia è in giro per il centro a guardare vetrine. Per noia, di fronte a una sartoria da uomo, provò ad immaginare che effetto avrebbe fatto quel ragazzino vestito in maniera un po' più decente. Provò, riprovò. Poi, facendo spallucce, smise di pensarci. Era un caso senza speranza. Il treno da Napoli arrivò, come si prescriveva, in orario perfetto. Enzo, dal fondo della pensilina, sbirciò fra i passeggeri cercando Mimmo. Il marciapiedi si svuotò, di Mimmo nessuna traccia. Enzo si avviò verso casa, seccato per la cortesia rimasta inutile. Suo fratello doveva aver perso il treno, magari per essersi attardato in una di quelle librerie dell'usato di cui Napoli era ricca. Sperò che avesse almeno fatto buona caccia. La cena del venerdì era in tavola. Finimola, che era sempre apprensiva, chiese di Mimmo ed Enzo minimizzò. Alfonso aveva qualche preoccupazione, ma la tenne per sé. Quella dedizione dei suoi figli alla causa sionista le sembrava non scevra di rischi immediati e per il futuro. Ma era la loro vita. Erano le loro scelte, e lei non poteva che spronarli in avanti. Angelo disse il kiddush, cominciarono a mangiare. Lello si irritava del posto vuoto di Mimmo, brontolò e mugugnò, ma senza conseguenze. Tutti aspettavano una comunicazione che non arrivò. Alfonso, immobile nel letto, con gli occhi aperti, in mente mille possibilità di pericoli e incidenti. Accanto a lei Lello riposa sereno. Sua moglie gli ha detto che non c'è di che preoccuparsi e lui pensa che lei sappia qualcosa di più e non le fa domande. Mimmo riapparve la sera dopo. In testa aveva la kippah. I riccioli già lunghi dell'ortodossia gli incorniciavano il viso. Stringeva sotto il braccio la vecchia Bibbia del nonno rabbino. Lello, che non gliel'aveva mai data, accettò che se ne impadronisse. In fondo nessun altro la usava mai. Alle domande, ai rimbrotti di Finimola, Mimmo reagì con stupore. Cosa c'era da spiegare? Era sceso dal treno per rispettare le norme sacre dello Shabbat. Enzo risparmiò al fratello i propri commenti e non gli fu facile. Non si risparmiarono comunque le battute, che rimbalzavano dall'uno all'altro a colpi di citazioni come una pallina da tennis. Enzo, che lavorava in quel periodo alla sua tesi con Bonaiuti, metteva in campo la filosofia cristiana e cattolica. Mimmo trovava nel Talmud ogni risposta. Alfonso li osservava allontanarsi da lei, svuotata e incerta di un ruolo per sé. Il pensiero che fossero insieme, stretti in quel loro patto di citazioni e progetti, anziché confortarla, glieli faceva nemici. Le parole che si scambiavano non le appartenevano più e la spaventavano. Di Xenia Mimmo si era innamorato immediatamente, già a sentire Enzo che la raccontava. Il passato di terrorista, il presente fervidamente sionista, erano per lui argomenti più che sufficienti. Poi la studiò meglio, durante i molti incontri in casa sua o altrove. Il fascino di Xenia, proprio perché venato di stanchezza e sconfitte, gli parve indubitabile. Dell'età non faceva conto, il sesso lo teneva così a distanza, e poi lei era tanto giovane nei suoi entusiasmi, nella passione. Il guaio vero, invece, era che non fosse ebrea. Mimmo provò a sondare le possibilità di una conversione. Xenia, ridendosi, riaffermò greco-ortodossa e poi riprese a parlare di organizzazione, di preparazione dei quadri dirigenti, di politica. A volte le riunioni andavano per le lunghe e il sabato sera Alfonso consentiva ai figli già grandi di ritirarsi tardi. Allora i ragazzi contribuivano in qualche modo e Xenia metteva insieme una cena. Enzo mangiava di buon appetito e Xeniuszka si spaventava della voracità con cui spazzava via le loro provviste. Anche Mimmo era sempre affamato, eppure spesso se ne restava a digiuno, preferendo il sacrificio alle infrazioni anche minime delle norme alimentari ebraiche. Allora Xenia si preoccupava per lui, proponeva cibi che le sembravano compatibili. Xeniuszka assisteva alle discussioni senza intervenire mai. Mangiava quel che doveva mangiare e poi si ritirava. La cucina di sua madre, pensava, non si sentiva di consigliarla a nessuno. Ma poi una volta qualcun altro preparò una zuppa di fagioli molto buona. E Xeniuszka si accorse che le dispiaceva che Mimmo non avesse assaggiato neanche quella. Perché era così giovane, pensò, sentendosi ben più adulta di lui, e a furia di digiuni, chissà in che modo mai sarebbe cresciuto. A Forte dei Marmi d'estate si ritrovavano ancora tutti i cugini insieme, al seguito dei genitori come quando erano piccoli. Per qualche settimana le strade già diverse tornavano ad intrecciarsi, un grande scambio di notizie, di scoperte e di passioni. Quell'anno Enzo non dava requie a nessuno. Ad ogni momento veniva fuori l'idea del nuovo stato da costruire e intanto prodigava ogni sforzo per convincerli ad entrare nella Avodà, il gruppo che preparava i giovani per il grande viaggio, la Palestina. Che Enzo ne fosse il capo non era mai stato in discussione. Il mare come una tavola. Presero in affitto un pattino, salirono in molti alternandosi ai remi. Seduta a poppa, con la faccia nel vento e un cappello di paglia troppo elegante, Ada canticchiava una filastrocca che si voleva spiritosa. Sulla spiaggia di Levante sta papà con la cantante, sulla spiaggia di Ponente sta mamma con il tenente. Qualcuno rise, di imbarazzo o complicità. Lea immerse una mano nell'acqua e se la passò fra i capelli. La sfrontatezza di Ada poteva dar adito a molti commenti e lei non voleva farne. Serrò le labbra per impedirselo e negli occhi che teneva bassi c'era il disagio della sua esistenza ordinata e prevedibile nel confronto con quella di Ada, libera per disattenzione degli adulti negli atteggiamenti e nelle scelte. I maschi si tuffarono, le ragazze rimasero al sole. Scherzi, caprioli, prodezze. l'intero repertorio dell'adolescenza messo in scena nel toccarsi fintamente casuale dei corpi, nei gesti inutilmente violenti o troppo carezzevoli. Improvvisamente anche Ada si tuffa, resta sott'acqua a lungo e riemergendo si aggrappa alla barca. Anche Mimmo ha la mano sul bordo così vicina alla sua. Il piacere dell'acqua e del sole e dei corpi è quasi insostenibile. Nuotando sott'acqua, lui si allontana verso l'orizzonte per godersi una pienezza troppo grande. Enzo è tornato ai remi e chiama i bagnanti a raccolta. Mimmo resta lontano, nell'acqua alta e calma. Disteso a faccia in giù, le gambe e le braccia allargate a stella, con gli occhi aperti nel sale contempla la sua murrina scendere giù. Giù, verso l'abisso, che la custodirà. L'ansia per l'azzardo è una punta dolorosa, nel cuore e nei polmoni. Mimmo la scaccia via, riemergendo a respirare forte, nel sole. Per la macchina da scrivere, Xeniuszka fu costretta a tagliarsi le unghie rosate e ben disegnate di cui era andata fiera. Raddoppiò perciò le cure che dedicava alle mani, morbide, bianche e lisce, a definirla signora. Per i lavori di casa le proteggeva con vecchi guanti irrigiditi che rendevano complicato ogni gesto e neanche la stanchezza più pesante le faceva mai tralasciare, la sera, di massaggiarle con una goccia d'olio di mandorle. Per il décolleté affrontava spugnature gelate e cominciò a depilarsi le sopracciglia. Per le scarpe si fornì di panni morbidi e di un grasso speciale. Ebbe, per una certa borsa, cure quasi amorose per farla più bella, per farla durare. Trattava gli abiti nuovi con una sorta di devozione. Li stirava e spazzolava e toglieva ogni invisibile segno di sporco e la fatica supplementare le tornava nel piacere di accarezzare i tessuti, nella sicurezza tutta nuova che andava assumendo di sé, del proprio corpo, del posto cui poteva ambire nella società. Gli uomini che la guardavano, che le facevano dei complimenti, erano piccoli impiegati in genere non più giovanissimi, attratti da quel tanto di classe che riconoscevano in lei e rassicurati dagli abiti di qualità comunque scadente. Nessuno fra loro somigliava neanche lontanamente al principe azzurro che Xeniuszka considerava tuttora l'ideale da raggiungere. La sera, quando la stanchezza del lavoro le tendeva i muscoli del collo, rendendole il sonno difficoltoso, se lo immaginava alto, muscoloso ma non troppo, di eleganza signorile, con gli occhi chiari che sua madre aveva immaginato per lei. Su qualcosa era disposta a transigere, ma non sul sorriso, che doveva essere luminoso, capace di avvolgerla tutta e riscaldarla. Enrico è a Londra per la specializzazione. La passione sionista dei fratelli sottolinea e allontana la sua diversità e il suo disagio. Le lettere sono il filo di un equilibrio acrobatico, in bilico fra solitudine di speranze bruciate e affetti che ancora si vogliono certi, rassicuranti. 4 gennaio 1924. Anche io attendo. Attendo forse più disperatamente di ogni altro e forse questa attesa mia non è che l'attesa della donna. Aspetto una donna, la mia donna. Credo che questo è oggi il nome del mio desiderio. Sento in qualche momento questo desiderio impersonale, perfettamente sensuale, in una maniera terribile, dolorosamente vivace. Attendo la donna che non ho ancora incontrata, quella che possa sostituire mamma. Attendo. Intanto a momenti ho il rimpianto vivissimo, che diventa quasi una sofferenza fisica, del tempo perduto per questa gioia futura, di tutto il tempo che è passato e che passa. 28 ottobre 1924. Vedo che mamma, e credo ancora più papà, pensavano che avrei usato della permanenza di Mimmo qui e della intimità, che ne è naturalmente seguita, per cercare di influenzarlo contrariamente al sionismo. Ho creduto, per quel che riguardava il sionismo, di considerare la materia come decisa, non più disputabile, sulla quale naturalmente ciascuno di noi aveva la sua opinione. E quando anche queste opinioni sono venute a contatto, è stato sempre nel campo delle idee e non in quello delle rispettive posizioni personali. Sono d'accordo con mamma nel ritenere che non si possa abbandonare il sistema della libertà che avete sempre adottato nei nostri riguardi. Ogni sistema ha le sue leggi e, naturalmente, i suoi inconvenienti. Ma non si possono violare quelle per evitare questi. E credo che un atto di forza non potrebbe che segnare un distacco molto profondo. Ma la protezione di consuetudini, libri, provette, alambicchi non lo ripara, neanche dall'ambizione di primeggiare, e non solo in campo scientifico. Il mondo è piccolo, la gente mormora, recita una massima usata in famiglia scherzosamente. Malgrado ogni ritrosia, che si parli di lui è comunque inevitabile, nel mondo davvero piccolo degli ebrei colti, che l'antica consuetudine al viaggio continua a spargere qua e là, e non solo in Europa. Come Enrico, Carlo Rosselli non è sionista. La Palestina è un sogno che pubblicamente ha argomentato non appartenergli. Scrive a sua madre di letture e studi e politica, non trascurando il pettegolezzo divertente, intelligente e un po' snob. Su Enrico e Mimmo, però, niente ironie. Londra, 26 settembre 1924. Ho fatto buona amicizia con i due giovani sereni che sono qui a Londra. Il maggiore è assistente di Fano a Roma ed è intelligentissimo. Lo stesso dicasi del fratello minore, che ha 17 anni ed è coltissimo in una infinità di campi. Conosce l'ebreo perfettamente, studia agricoltura e tra 2 o 3 anni, appena laureato, andrà in Palestina a lavorare la terra. Per quanto utopistico possa apparire questo ritorno alla terra con colonie più o meno comuniste, delle quali in Palestina si fanno già degli esempi, non si possono non ammirare questi giovani disposti a sacrificare tutta la loro vita intellettuale e materiale per il conseguimento di un ideale che a me sembra irraggiungibile. Se non fosse apparso irraggiungibile anche ai migliori, quell'ideale per Enzo e Mimmo non sarebbe stato sufficiente. Come accade ai cipressi, agli sparvieri, alle spighe di grano, che per un loro codice genetico puntano a conquistare il cielo direttamente.